queste stronzate. Poi per qualche coglione ci piangiamo tutti. Per carità, ogni tanto si fa di vedere qualcuno, fa sentire qualcuno, per carità, per i gusti. Sono animali, capito? Non sanno che la radio è fatta per parlare, non per rompere le balle. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao a tutte e due. Sì, ok, ciao. E io ciao, Cla. A dopo. C'è un apparato simile al tuo, mio marito. Anzi, come quello che mi aveva portato cosa a... ma che diavolo era? A riparare, ti ricordi che... veniva male a fare la riparazione, perché ti rimanevano i pezzi in mano. Uguale, beh, ce l'ho, preciso identico. Oh! Ma che tipo è? Ero meno a metro, e che tipo era? Io cazzo. Mi è sceso il microfono, aspetta le barattino quello... mi dà la 27. Sì, con la marca. Leixen www.898. 10 watt d'uscita già. Vai, va. VU. Uguale identico a quello che mi avevano portato per sistemare. Che poi mi è rimasto il pezzo in mano, infatti l'ha detto, non ne vale neanche la pena, gli ho detto, guarda, non è possibile saldare questi microcomponenti, è un togliaio. Ah. Me l'hanno regalato, già ho visto, già funziona bene, per 10 watt quello che c'ha va benissimo. Ha voglia, ce n'è anche per i porci. Ehi, funziona bene, guarda bene, ehi, a buia. Ah, questo è molto più forte, questo qua. Ehi, questo me l'ha il doppio di quello lì. In queste bande qua. Ehi, ehi. Adesso ci sono quei i Bofeng, gli 888 stanno dando 4,60 l'uno. Quanto? 4,60. È un prezzo buono. Ehi, lo so, infatti. È sul sito AliExpress, capito? L'ho visto l'altro giorno. C'è l'offerta, c'è 4,60 l'uno. Spesa di spedizione gratuita poi anche. Qualcuno sente? Sì, avanti, chi è? Danilo. Ciao Danilo, avanti, buonasera. Antonello da questa parte insieme a Gio Maria. Sì, ciao Antonio. No, adesso esco fuori, che ho una direttiva appena finita e mi devi dare un controllo radio, fai il favore. Ehi, prova, non c'è problema, sono anch'io in cosa, con la direttiva. Prova, esci fuori e poi la provi, là, ti attivo un controllo. Ok, sto uscendo. E beh, da lì, messa a posto lei questa direttiva. Oh, io non lo sento, eh. Stava provando ha detto che stava provando, adesso mi agganciava la direttiva per provarla. Fuori ha detto che voleva un controllo. Adesso appena la prova glielo do subito. Così dico come arriva qua. Si chiama Danilo. Guarda, io ti sento, eh. Come mi senti? È perfetto, la nave è buonissima, è cipre. Ah, che segnale a fondo scala, sì, eh. Chiamali! Ciao, Lu. Dani, qua sei segnale 7. Qua a Carbonazzi. Che zona sei? Carbonazzi sono io. Allora, aspetta che la giro appena. Andiamo, Chiamali. Andiamo bene, andiamo. E beh, Chiamali, come va? Ok, dimmi adesso come sono, come segnale. Ciao, Danilo. 7 sei da lì. Adesso sempre 7 o ha migliorato qualcosa? 7 e mezzo, quasi 8 da lì. Qua sei a fondo scala, Dani. Chi sei? Luca. Ehi, mi senti, Dani? E anche qua arriva a fondo scala, eh? E vuol dire che è vicino a voi, senz'altro, Danilo. Arrivavi a fondo scala deve essere lì nella zona vostra, mi. Zona Monterosello, magari la Telonci. Sotto Santo Rosella Nord sono, in poche parole. Ah, allora già vabbè, ci avevi fronte, cazzo, la Telonci. Se sei Santo Rosella Nord, sei vicino, molto vicino alla Telonci. Allora abita Gio Maria e anche Luca. E dove abita? Santo Rosella lui, no? Eia. Allora ecco perché a me arriva a fondo scala anche a Luca. Dani, come mi senti a me? No, a te ti sento forte e chiaro, anche limpida limpida la voce. Adesso dimmi come sono, che ho girato l'antenna verso i punti. Adesso il segnale è calato, adesso 6-8 di segnale. Prima eri 10 il segnale, adesso è 8, Però la radio è buonissima. Da me è salita a 9 qua. Io non lo sento più. Come sono? Aspetta, Dani. Sì, mi senti? Adesso non ti sentiamo, Adesso? Adesso è puntata a sud. Adesso non c'è segnale nulla, Però la radio è, insomma, 3-4, non di più, Adesso è puntata proprio a sud. Proprio dritta a sud, Adesso 6-7 di segnale. La radio è buona. Sono sceso da te di segnale. Sì, sei sceso. Ah, sono 6-4 Gio Maria, 9 più, proprio. Luca! Invece adesso come sono? 1, mettila in verticale con la direttiva, se la metti, no, mettila orizzontale, sennò... No. È molto meglio. Io ce l'ho in verticale la direttiva, puntata a Monteoro. Ah, e avrei lasciato la verticale, basta, c'è la direttiva, cosa ne fai? Cosa ne fai questa direttiva? Gio Maria, adesso io lo ascolto, Danilo, prima non lo sentivo, Danilo! Ehi, dimmi, Lu. Mica ti ha chiamato. Luca. Dico Luca. Luca! Ehi, se non rispondo che c'ho il cane, Gio Maria, che è ferro, sta rompendo le scatole, capito? Danilo. Sì, già vi sento, ditemi tutto. Avanti, che ha chiamato Danilo, avanti. Mi sentite? Vabbè. Vabbè. Mi sentite, sì o no? Eia. E tu, Luca, mi senti? Luca non ti sente più, sei sceso il segnale quasi a zero. Anche quasi a zero? Aspetta che la rigiro un altro po'. Adesso? Vabbè, dai, vado. Me ne vado in soggiorno. Non ho giugana di stare in radio, non ne ho voglia. A domani, ciao. Ciao Luca, alle prossime. C'è la pulizia. Com'è che mi sentite adesso? Danilo, non ti intendo più io, Girala come l'avevi messo prima, a sud. Cazzo, una volta c'era cosa, te lo ricordi Giomari? Quello Genovese, cazzo, con 22 elementi, puntava in Sardegna, cazzo, tutti sentivano, anche quelli con gommino, cazzo. Era una cosa allucinante, era. Me la metto. Vabbè. Ma... quello che sta usando cose, portatele da Lilo, così che mi sembra una cosa strana che con la direttiva vada bene. C'era anche la direttiva con portatile, lo usavo anch'io la direttiva con portatile. Solo che quella che ho io l'ho messa in verticale, perché se la metti orizzontale dove punti riesci a sentire e basta. Invece in verticale è una cosa diversa, capito? Prendo una parte all'altra, però ho i problemi invece sul retro, che ricevo molto male. Infatti quando devo andare nella banda V, devo per forza usare la verticale, perché se no non sento un tubo io, capito? Infatti meno male già ho l'X300 che funziona, adesso è bassa. Adesso uno di questi giorni compro due staffe, piazzo un tubo da 4 metri e mi metto l'X300 di avanti della mantova. Metto la verticale così almeno riesco a sentire la banda V perfettamente. Anche perché io cosa lo per dire, la frequenza marina nel canale 26, no, non intendo nulla. Se metto invece l'X300, la cosa, il porto del salio lo sento benissimo. Perfetto. Ma la verticale va dappertutto, mentre la direttiva va bene magari sull'altra frequenza, gatto. No, non qua, gatto. La direttiva secondo me qua, la PMR non fare una cicca, capito? Perché magari arriva a te a me non arriva, è anche questo, invece quella verticale arriva da una parte e dall'altra, che specialmente i sassari, gatto, la punta verso di te, tu lo senti, io non lo sento, e quella la facendo, invece la verticale va dappertutto e sei più tranquillo. E il fatto che i verticali che arrivano fino a 520 non ce l'hai, capito? Bisogna comprare la che faccia la V alla gabbanda proprio che faccia tutta la, per dire, dai 144 alla, a 520 MHz, allora sei a posto, copre tutte le bande e sei tranquillo in verticale. Purtroppo lo sai, l'X300 fa, se non mi sbaglio, fa fino a 4,40, una cosa così se non mi ricordo male. 4,46 sei già fuori banda a semi. Ehi, ehi, aspetta, lo chiamiamo. Dali, no, Dali, vai, Parigi. Evidentemente la sta sistemando. Magari ce l'aveva autocostruita, niente di strano. Comunque ci sono le antenne direttive per questa frequenza qua, ho visto ieri, costano intorno ai 80 a 100 euro, che fanno tre bande, fanno da piazzare, quindi figurati, va messa in verticale oppure orizzontale, come pare piace a te. Ah, va bene verticale, va, proprio io non le metterei direttiva assolutamente, per nessuna ragione. Passa l'antennino verticale, boh, e vai dappertutto, e sei più tranquillo, boh. Poi sta girando, paghi, c'è il sasso, oh, i, no, sarà, no. Cazzo, chi si sono di voi? Vabbè, te, vai, io chiudo e ci sentiamo domani, vai. Buon proseguimento, ci sentiamo, da lì, se sei d'ascolto, ciao. Chiudo. E io, ciao, Giamari, ci sentiamo. E la cosa va bene solamente per i miei. Per l'LPD e basta, quelle direttive di una volta, quelle 22 elementi. Noi siamo in PMR, siamo più in alto, dai, di 483. Figurati tu, quindi a un certo punto siamo fuori banda un po'. No, io, quella che ho io, la direttiva fa fino a 520 MHz, quindi a voglia. Ed è un 8 elementi. Cazzo, pesa 3 kg.